Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, benvenuti ai nostri ascoltatori. Oggi sempre in primo piano le situazioni finanziarie. Avete sentito il voto del Senato americano, il voto negativo e il crollo del mercato asiatico. Siamo ancora in piena tempesta finanziaria. In Italia c'è qualche altra tempesta, c'è il maltempo che condiziona e che preoccupa. È attesa per la giornata di oggi, del pomeriggio, la piena del Tevere a Roma. Ecco, in questo caso si tratta di una previsione basata su dati tecnici, di una previsione ovviamente allarmante su cui si stanno predisponendo le misure per evitare i possibili danni, e una previsione però appunto accurata e quasi sicura. Invece le previsioni degli economisti molto spesso sono sbagliate, e si dice anche un aneddoto, dice: prendete due economisti, avete tre idee differenti. Gli economisti sono in fondo sul banco degli accusati di fronte alla crisi finanziaria per non aver saputo prevedere quanto è poi avvenuto. Ne parliamo con Gian Giacomo Nardozzi. Buongiorno, professor Nardozzi. Buongiorno. Gian Giacomo Nardozzi è ordinario di economia politica al Politecnico di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, e nei giorni scorsi ha scritto un articolo insieme a Marco Nado, un altro professore editorialista del Sole, con titolo molto esplicito: economisti sì, ma non indovini. In fondo una difesa d'ufficio del proprio mestiere di economista. Dice: chiedeteci di analizzare la situazione, ma poi la realtà è fatta in fondo dalle persone, e prevedere cosa succede, se non difficile, è impossibile e qualche volta magari anche inutili. Allora, Gian Giacomo Nardozzi, ti senti sul banco degli accusati in questa situazione di crisi finanziaria, in cui sembra essere particolarmente difficile capire dove si sta andando? No, io personalmente non mi sento assolutamente sul banco degli accusati, e l'intervento mio e di Marco Nardo non va visto come difesa, tanto come difesa degli economisti. Cioè, io non credo di avere nessuna colpa dalla quale difendermi, ma piuttosto come affermazione di un modo di fare e di insegnare, perché noi insegniamo appunto economia, che segnalava i rischi che si stavano preparando per questa crisi, ma che purtroppo questo modo di vedere l'economia e di insegnarla è rimasto molto molto minoritario, perché sostanzialmente non consono agli interessi prevalenti. Se andate a vedere quello che c'è scritto sui manuali, quello che gli economisti più brillanti e i più brillanti opinionisti, e quello che c'è scritto sulle migliori riviste scientifiche, voi vedrete da un lato una straordinaria esaltazione delle capacità dei mercati finanziari di produrre benessere e anche addirittura di rendere più stabili le economie, che è esattamente il contrario di quello che abbiamo visto, e dall'altra parte una visione molto unidirezionale di quello che devono fare le banche centrali, sostanzialmente guardare all'inflazione, in particolare questa è la Banca Centrale Europea, e a poco altro, senza mai sottolineare il lato che invece abbiamo purtroppo toccato con mano in maniera molto dura, che è quella della possibilità di crisi finanziarie molto importanti. Ecco, in questo proposito si può dire che comunque i segnali d'allarme c'erano stati. Io ho cercato un tuo articolo dell'agosto del 2007 in cui si diceva, si parla proprio di un rischio esplosivo dei mutui subprime che hanno contribuito a prolungare la bolla immobiliare americana. Quindi già da un anno, da più di un anno, c'era questo esplicito rischio di esplosione della crisi finanziaria, però forse non c'era interesse ad accogliere i segnali d'allarme, e quando in una situazione in cui la crescita continua c'è qualcuno che dice ci sono dei rischi, viene preso come una Cassandra e viene dice ma è un po' un uccello del malaugurio. Quindi se anche una percezione da parte del pubblico, dell'opinione pubblica e dei politici sul fatto che certi allarmi possono essere non graditi e quindi certe previsioni possono passare in secondo piano. Nardozzi. Sì, certamente. Era tra l'altro, tu hai ricordato questo articolo, anche un anno prima, devo dire, insieme a Marcello De Cecco, introducendo e presentando una ricerca su, che si chiamava Il futuro della banca e della finanza, guarda caso, segnalavamo diciamo i lati negativi delle cartolarizzazioni, cioè del trasferimento dei rischi di credito dalle banche ai mercati, che era visto allora, è sempre stato visto come un modo per ridurre il rischio, perché viene distribuito dalle banche presso molti investitori, quindi non rimane nelle banche. Noi segnalavamo appunto che nella misura in cui questo rischio veniva distribuito in giro per il mercato, poi prima o poi si sarebbe dovuti arrivare a una situazione in cui la rete di protezione delle banche centrali si sarebbe dovuta estendere ai mercati. E l'ho riletto proprio ieri e faceva, insomma, sono rimasto impressionato perché è esattamente quello che è successo. Le banche centrali hanno esteso la loro rete di protezione, cioè hanno accettato in cambio di moneta titoli che non avrebbero mai accettato, non erano mai stati accettati nella storia. Ecco, c'è un altro fatto, stando invece sull'economia diciamo più corrente, più dei cittadini, dei consumatori, il fatto che poi l'economia è composta appunto di persone. In questo ultimo articolo Economisti sì ma non indovini appunto si dice che gli economisti possono fare la loro parte, ma poi l'economia va nella decisione che scelgono le scelte arbitrarie in fondo e imprevedibili di milioni di persone, e quindi ecco queste scelte sono in parte giustamente imprevedibili e fondo sono il bello dell'economia e anche della società. Eh sì, infatti questo è quello che almeno a me appassiona, come appassiona dell'economia, e cioè che sia una scienza, una disciplina in cui conta anche molto, se si vuole, l'intuito, cioè la capacità di capire quale tipo di analisi, quale tipo di modello, di teoria vada applicata in una circostanza specifica, perché non sempre si devono applicare le stesse teorie, gli stessi schemi di analisi. Questo naturalmente dipende molto da quello che dicevi tu, e cioè che insomma, a differenza, noi facevamo l'esempio lì nel nostro articolo, dei terremoti il cui verificarsi non dipende dall'azione del geologo, dall'intervento del geologo, in economia quello che succede dipende da comportamenti e in particolare da comportamenti di quelli che reggono l'economia, no? Per esempio, nel caso specifico della crisi finanziaria, è indubbio che questa si sia fortemente aggravata, cosa che non era assolutamente prevedibile, non era prevista perché non era prevedibile, dopo che è stata presa la decisione di fare fallire Lehman, ma questa decisione l'ha presa il ministro del Tesoro degli Stati Uniti. Certo, ecco, indubbiamente è parte in causa, cioè è parte in causa dell'economia, a differenza, diciamo, del geologo che non è parte in causa del terremoto. Ecco, anche per questo forse i terremoti, scusa se sì. Volevo fare una precisazione. Invece purtroppo c'è una tendenza a vedere l'economia come qualcosa che è soggetta ogni tanto a terremoti che vengono dal di fuori, E infatti si parla non a caso molto spesso di shock. Ecco, il punto che io vorrei sottolineare è che una crisi finanziaria non è uno shock esogeno che viene da di fuori, come un terremoto, è qualcosa che dipende da il crearsi di un grosso potenziale di instabilità che è fisiologica all'economia. L'economia non è un sistema stabile, ecco. Certo, e anche per questo forse che parlare di scienza per l'economia non è del tutto corretto, può essere più una disciplina, la scienza di solito sono scienze esatte, ma forse di questo vuol parlarci anche Marco da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Sì, volevo fare una riflessione da uomo della strada, direi, ma però secondo me è puntuale, cioè è impossibile parlare di scienza e gestire delle dinamiche, delle relazioni che hanno fondamentalmente dei supporti emotivi, affettivi, cioè credo che l'aggressività, la sete del potere, il volere primeggiare siano delle spinte fondamentali che muovono gli interessi economici. Se non si inserisce più psicologia e a volte anche analisi psichiatrica all'interno dell'economia, credo che sarà difficile prevedere gli andamenti, perché sono fondamentalmente soggetti a queste spinte emotive e affettive. C'è una competizione che spesso si trasforma in guerra, che di fatto elimina in gran parte dei casi la trasparenza, l'integrazione, il bene comune, cioè valori etici e morali, perché si è spinti da una competizione molto aggressiva, credo che inevitabilmente possa condurre a crisi drammatiche che hanno la base delle ragioni, a mio avviso, spesso affettive e quindi psicologiche. Sì, la ringrazio. Indubbiamente i due aspetti sono molto importanti, l'aspetto sia il fatto che l'economia sia condizionata, come dicevamo anche prima, dalle scelte personali, emotive delle persone, e l'altro aspetto altrettanto è forse più importante, che queste scelte emotive, che se non rispettano dei principi etici, dei principi di correttezza formale e sostanziale, come abbiamo visto in quest'ultimo periodo, e quindi viene retta solo da una spinta al guadagno, a produrre ricchezza con la ricchezza, certamente anche l'economia diventa uno strumento che può essere al servizio di pochi, al servizio appunto di posizioni anche scorrette complessivamente, che portano agli squilibri. Gian Giacomo Nardozzi. Sì, quello che diceva, mi è piaciuto l'intervento di Marco da Reggio Emilia, se ho ben capito. Sì, mi ha fatto venire in mente l'incertezza di cui parla Keynes, cioè l'importanza dei fattori psicologici, dei fattori politici, dei fattori di potere, di tutta una serie di fattori che non possono essere logicamente previsti, messi nel conto, possono essere messi nel conto ma non previsti nel loro manifestarsi. Riporta esattamente a quello che è il concetto di incertezza molto sottolineato da Keynes a proposito proprio dei mercati finanziari, nel senso che noi non siamo in grado di prevedere, perché agiamo in un contesto di incertezza che non è annullabile con il calcolo delle probabilità. Ma forse anche questo è il bello dell'economia, il fatto che se tutto fosse prevedibile non ci sarebbe neanche poi la soddisfazione di ottenere dei risultati. Marco da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, ringrazio intanto per avermi consentito di intervenire. Prego, dica. Senta, io proprio riguardo a questa assodata, diciamo, stato rischio che si ha negli investimenti e nel settore finanziario in genere, così, intervenivo più che altro per sottolineare, mi sembra, il fatto che questo rischio comunque viene accollato tra i vari partecipanti e attori del settore finanziario in maniera diversa e squilibrata, nel senso che un rischio per un piccolo risparmiatore e un rischio invece per una banca o per un promotore finanziario è diverso. E questo tende a chi almeno si accolla a questo rischio in maniera diciamo inferiore, a sottovalutare certi fattori. Voglio dire, il poter spalmare certe scommesse andate male, diciamo così, su un gran numero di risparmiatori che si ha a monte, a volte fa sottovalutare appunto certi fattori di rischio, perché di fatto poi il rischio si riversa sul risparmiatore, appunto, ecco. Grazie, sì, mi sembra chiaro, il rischio appunto, i risparmiatori non hanno tutti i mezzi per potersi difendere, per conoscere appieno cosa c'è all'interno dei prodotti finanziari. Abbiamo visto proprio in quest'ultima crisi come gli strumenti finanziari abbiano dato anche adito ad essere degli strumenti che nascondevano poi quelli che vengono chiamati i titoli tossici. Qui anche certe grandi banche però ci sono cascate e hanno dimostrato di non avere l'esatta precisione del rischio, e anche alcune grandi banche hanno avuto delle forti perdite. Gian Giacomo Dardozzi. Questo è il lato, diciamo, della innovazione finanziaria, la quale promette di coprire meglio dei rischi dal punto di vista individuale, e questo è sicuro, insomma, pur coprendo, diciamo, una somma di rischi individuali, può finire per generare un rischio sistemico. Ecco, quello che è stato sottovalutato, secondo me, questa è una colpa che si può dare alle banche centrali, soprattutto alle banche centrali che si devono occupare anche di stabilità finanziaria. Quindi, quello che si può dire è che questo è stato grandemente sottovalutato dalle banche centrali, le quali hanno avuto un atteggiamento molto permissivo nei confronti della sperimentazione di questi nuovi prodotti finanziari, non vedendo la possibilità che il proliferare di questi strumenti aumentasse il potenziale di rischio sistemico, che poi è esploso, perché quello che è esploso, la gravità di questa crisi, è proprio il fatto che è esploso un gravissimo rischio sistemico, e questo lo si è visto sul mercato interbancario. E io vorrei ricordare che il mercato interbancario, quello in cui si scambiano liquidità a breve, brevissimo termine, le principali banche, è fondamentale per la tenuta del sistema dei pagamenti. E se il sistema dei pagamenti non tiene, vuol dire che noi non riusciamo più a usare la moneta bancaria, cioè non possiamo più usare gli assegni, certo. Tanto per intenderci. Quindi qui si vede la gravità del pericolo che è stato sfiorato, e che è questo che spiega l'eccezionalità dell'intervento, della mobilitazione, degli interventi delle banche centrali. Quindi interventi molto forti che hanno evitato per ora una crisi ancora più forte, appunto sul fronte finanziario. Sul fronte reale la crisi è ancora, purtroppo ancora aperta. Sentirei Ernesto da Udine, buongiorno. Ah, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa, cioè giustamente il professore ci diceva prima che i mercati si stavano un po' rialzando verso marzo-aprile, e poi c'è stata la crisi di Lehman che ha fatto tracollare il mercato. Adesso che crollano, che falliranno i due colossi del mercato delle automobili, cosa succederà allora? Grazie. Grazie, speriamo che non falliscano, ci sono gli interventi che sono previsti, anche se quello che è avvenuto questa notte al Senato americano lascia intravedere anche prospettive non certo positive, però fino ad ora, dopo appunto il fallimento non evitato di Lehman Brothers, gli interventi pubblici hanno tutti cercato di evitare ulteriori scossoni sui mercati, appunto sia finanziari sia sui mercati reali. Ma Gian Giacomo Dardozzi, cosa può succedere se dovessero fallire queste grandi imprese americane? Anch'io spero che questo non avvenga. Spero che non avvenga, perché la cosa avrebbe un... Spero che non avvenga da un lato, dall'altro debbo dire che temo anche il diffondersi di un protezionismo ad effetto domino, che sarebbe forse più drammatico di un qualche fallimento di pure grandissime case automobilistiche. Io ragionerei così: se delle case dei colossi, come sono questi, nel campo dell'automobile, dovessero fallire, beh, prima di tutto, diciamolo chiaro, insomma, io credo che ci siano anche delle responsabilità manageriali in questo, nel senso che così come adesso si dice, si potrebbero risollevare le sorti di queste industrie automobilistiche puntando al risparmio energetico, all'energia verde, eccetera, questo lo potevano capire anche prima, mentre hanno fatto esattamente l'opposto, insomma. Tutti conosciamo i SUV, i mezzi quasi militari che hanno prodotto queste grandi case automobilistiche. Ecco, purtroppo, a parte il fallimento, diciamo che i manager non sono stati all'altezza della situazione, io credo che se questi falliscono, alcuni pezzi di questa roba verrà comprata da altre industrie. Ecco, però siamo un po' in conclusione, Nardozzi, possiamo dire che comunque la storia ci insegna che le crisi possono essere anche forti, ma sempre ci si riprende, si trova una nuova strada, ci saranno anche dei prezzi da pagare. L'importante è che sul piano sociale questi prezzi siano il minore possibile, poi se qualche manager deve perdere il posto, purtroppo è anche la logica del mercato, e se il manager sbaglia è giusto in fondo che perdano il posto. Io ringrazio Gian Giacomo Nardozzi, ordinario di economia politica al Politecnico di Milano, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, Carmelo Lauricello in regia, l'appuntamento è per lunedì.